In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2, ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andata a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieti dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei riterrato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Ecco, Gesù oggi ci invita a far fruttificare i nostri talenti. Perché? Perché dobbiamo far fruttificare i nostri talenti? Perché i talenti, che cosa sono innanzitutto i talenti? I talenti sono i vari doni che abbiamo ricevuto. I doni che abbiamo ricevuto sono innumerevoli, non li possiamo nemmeno contare. Se ci proviamo, naturalmente sbagliamo il conto perché sono veramente tanti, a partire dal dono grande della vita fisica, a quello della vita della grazia, il dono delle persone che ci circondano, il dono dell'intelligenza, il dono della salute, il dono della bellezza, il dono delle varie abilità che possiamo avere, le varie inclinazioni, insomma, tanti, tanti doni e tutti questi doni perché il Signore ce li dà? Non solo per noi, ma perché li mettiamo a servizio degli altri, perché ne siamo amministratori e non padroni. E qual è la differenza? L'amministratore è colui che si prende cura, amministrare vuol dire prendersi cura. Veramente mettere l'impegno, quindi perseverare in questo impegno e quando perseveriamo nell'impegno si ottengono dei frutti meravigliosi. Veramente la perseveranza ci fa ottenere frutti incredibili. La perseveranza riesce a trasformare l'impossibile in possibile, il possibile in probabile e il probabile in certo. Quindi cerchiamo veramente di perseverare nel far fruttificare i nostri talenti. E questo perché? Per realizzare noi stessi, ma soprattutto per portare frutti di eternità, frutti che ci possono servire per la vita eterna, perché in questi giorni stiamo meditando come è importante essere sempre pronti, sempre vigili. E una prontezza viene data proprio dall'impegno che noi mettiamo in quello che dobbiamo, che siamo chiamati a fare quotidianamente. E che cos'è che ci può impedire di fruttificare, di mettere, di amministrare bene i talenti? La paura. Vedete questo uomo che aveva ricevuto un solo talento lo sotterra perché? Perché ha paura. Paura, quante paure noi abbiamo e le paure non ci fanno portare frutto. Allora oggi chiediamo proprio al Signore il dono di perseverare nel far fruttificare i nostri doni e metterli a disposizione degli altri, perché alla fine della vita saremo giudicati sull'amore. Buona giornata.